pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra Torino è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa e come te sbagli, essendo giovedì, nell'aria c'è Attica Blues, ricominciamo così la stagione dopo l'estate. In realtà abbiamo dedicato già una puntata a Toots Hibbert, poi è andata una puntata di Bob Marley in replica e adesso eccoci qua con una puntata mista, vero Luque? Sì sì, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova stagione. E allora iniziamo con, ancora omaggiando Toots Hibbert, che appunto se n'è andato lo scorso 11 settembre, ma ci ascolteremo tre pezzi particolari. Eh sì, sono pezzi da un CD che si chiama True Love, nel quale Toots Hibbert incontra grandi personaggi della musica, non solo reggae. Sì esatto, un disco del 2004, tra l'altro che gli è valso anche un Grammy. E allora noi ci ascolteremo in sequenza tre artisti che, no, in realtà due, poi Eric Clapton e Keith Richards, che sono abbastanza lontani dal mondo del reggae, e poi invece una terza versione di Reggae Got Soul con due grandi cantanti giamaicani, ossia Ken Booth e Marcia Griffith. E allora cominciamo subito con questa Pressure Drop, Toots Hibbert ed Eric Clapton, e benvenuti a questa nuova stagione di Attica Blues. 1, 2, 1, 2, 10, 12. Adesso, come annunciato, ci ascoltiamo il pezzo con Keith Richards, si tratta di Careless Ethiopians, sempre Toots and the Maytals. Tra l'altro Toots era un fervente rasta, ma non aveva i dreadlocks. Sì, lui fu anche arrestato nel 1967 per possesso di marijuana e si era aveva sempre sostenuto di essere innocente proprio perché era rasta, ma in realtà poi non aveva avuto i dreadlock. Perché? Perché a 18 anni si era sposato con Doreen e si era trasferito a Kingston, a Trenchtown, dove esattamente, dove lavorava in un barbiere, intratteneva appunto i clienti con le sue melodie, e però da allora gli è sempre rimasta, insomma, ha detto, la fissa, insomma, per il capello perfetto e curato. Quindi nel Barber Saloon. si Dio piensas de hoy. Somos que las Ethiopian have gone astray. They calling upon Antichrist each night and day, looking for a God to come from out of space. So what's there to the ocean have gone astray. I've lost the way. Are you coming my way? Come my Are way. You coming my way? Come my Say no matter way. What you do, come my you gotta way. Come my way. Come my you got to come my way. Oh yeah, come. Careless Ethiopians have gone astray. Some careless Ethiopians have gone away. If they know not where they're going, everyone gone astray. They're calling up on hand by Christ. Silbert, che tra l'altro ha interrotto la sua carriera una decina d'anni fa, mi pare, in quanto su un palco in America gli fu lanciata una bottiglietta in faccia, che lo colpì in faccia, e il fatto lo turbò profondamente. Sì, era in realtà proprio una bottiglia di vodka lanciata da un suo fan, però completamente ubriaco. Sì, era il 2013 in Virginia, e questo ha un po' fermato l'attività di Tools, che però poi era ripartita alla grande, fino anche a quell'album uscito proprio lo scorso 28 agosto. E proseguiamo ancora con l'ascolto di True Love, in cui Toots Hibbert riprende tutti i suoi vecchi successi in compagnia di svariati artisti e amici. Questo è con Ken Booth e Marcia Griffith, ancora un suo pezzo vecchio, Reggae Got Soul. Can do it all through the night. Grandma. father can do it, grandfather can do it. Do it and feel alright. Baby got soul. Questo piccolo omaggio a Tuz, omaggiamo un altro grande personaggio dell'isola di Jamaica, star West Indies. Sto parlando di Bongo Herman, quella che ci ascoltiamo adesso è la sua Freedom Fighters, e ci ascolteremo tre pezzi suoi in quanto da poco ha festeggiato il suo compleanno. Sì, era il 18 settembre, ha festeggiato 79 anni lui, Herman Davis, che è nato a Kingston proprio nel 1941. E appunto ci sembrava doveroso omaggiare anche questo, che è stato un, che è un grande batterista e percussionista giamaicano. Il bobo shanti it's ayer man go aya yes I where man go aya I'm on a forward Africa in a seal for go do what for go fight against sword pirates. I'm gonna go buy a sword now one and I buy it in a one hand aight. I said to no far right. stiamo ascoltando è il secondo pezzo in scaletta di Bongo Herman, No For I. Bongo Herman che ha iniziato a suonare verso la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Poi nel 66 si è esibito nelle celebrazioni per la visita in Giamaica di Haile Selassie e ha iniziato una carriera discografica nel 69. Questa, No For I, è del invece del 1971. Got to come right over. Considerato un elder dei Rasta in Giamaica, Bongo Herman, quella che ci andiamo a ascoltare è la sua African Jumper. Questo excursus sull'isoletta di Giamaica con un altro foundation di cui è stato il compleanno recentemente, sto parlando di Teddy Uroy. Sì, sì, un anno più giovane di Bongo Herman. Lui ha festeggiato il 21 settembre. Lui all'anagrafe Edward Beckford, conosciuto anche come The Originator, è appunto nato nel 1942, quindi ha festeggiato i suoi 78 anni. Per quello che è stato, si può dire anche un pioniere della, del DJ style e anche del rap poi in America. Originariamente pensavo fosse molto ma molto ma molto più vecchio, invece solamente 78 anni per lui. L'ho visto recentemente a Firenze, è venuto, ma insomma gira ancora, va ancora in giro, sempre arzillo come al solito. Questa è la sua Have Mercy. As the children, you got to know your culture. Because we're one or two or three of us together, they got to be them love. I said they got to be some love, see they got to be some love. Lasciamo l'isoletta di Giamaica e ci spostiamo nella black music più deep, passiamo a Ray Charles. Sì, anche in questo caso poi per festeggiare il suo 90° compleanno, lui che era nato il 23 settembre del 1930, ma diciamo subito che dedicheremo un'intera puntata appunto per questo importante compleanno, ma ci sembrava giusto e corretto anche ascoltarlo in questa prima puntata. Abbiamo scelto un brano non suo, ma un brano scritto dal musicista e cantautore country Don Gibson, I Can't Stop Loving You, ma proprio Ray Charles nel 1962 porterà questa canzone alla popolarità internazionale, e pensiamo che proprio nel 1962 è stata in testa alle classifiche americane per ben 5 settimane. Un compleanno virtuale, in quanto Ray Charles non è più tra noi già da un po'. Sì, certo, Ray Charles ci ha lasciato il 10 giugno del 2004, morì a Beverly Hills. Made up my mind. sometimes. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Time heals a broken heart, but time has to steal. So I'll just live my life in dreams of yesterday. So I'll just live my life of dreams of yesterday. Passiamo adesso a un live del 1970 alle Hawaii, nello specifico a Maui. Questa è The Jimi Hendrix Experience e non l'abbiamo scelto a caso. Sì, infatti lì, qui in questa registrazione del 30 luglio del 1970, e tra l'altro sta uscendo anche un nuovo lavoro, un nuovo documentario che è appunto testimonia proprio la storica visita di Jimi Hendrix a Maui e alle Hawaii. Ma perché poi qualche mese più tardi, solo il 18 settembre 1970 a Londra, Jimi Hendrix morirà, e quindi proprio quest'anno si sono celebrati, ahi noi, i 50 anni dalla scomparsa di questo che possiamo anche definire il più importante chitarrista della storia. Il brano che abbiamo scelto per voi è Voodoo Child, tratto proprio da questo lungometraggio a breve in uscita. I'm ed è stato sicuramente un settembre molto prolifico di compleanni. E il 7 settembre ha festeggiato anche un probabilmente poi il jazzista vivente più importante, ossia Sonny Rollins, ha festeggiato il suo 90° compleanno, lui nato ad Harlem nel 1930, e anche per lui sicuramente dedicheremo una puntata intera per omaggiarlo. E per introdurlo abbiamo scelto un brano dove lui è ospite di una band che aveva poco a che fare con lui in realtà ai tempi diceva neanche di conoscerla. Parliamo dei Rolling Stones, che nel 1981 per il loro album Tattoo You invitarono proprio Sonny Rollins per il brano Waiting on a Friends. E merito di questo incontro era del batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, che aveva sentito, grande appassionato di jazz, che aveva sentito Sonny Rollins al Birdland nel 1964. E poi lui anche in un'intervista aveva detto era incredibilmente alla moda e aveva un aspetto favoloso, e lo ha ancora. E in comune avevano lo stesso sarto a New York, e così quando Mick Jagger aveva chiesto un tenore, Charlie Watts pensò proprio a Sonny Rollins. Tra l'altro Sonny Rollins racconta di non aver ancora mai preso quei soldi di questo featuring, chissà se è vero. Sì, questo non lo sappiamo, però fu spinto dalla moglie, grande appassionata dei Rolling Stones, e il risultato non era davvero niente male, ed eccolo qua. Waiting on a Friend. Passiamo adesso a due novità, diciamo così, a due nuovi singoli usciti per la Dapton Records. Sì, ci spostiamo a Brooklyn per questa gloriosa casa discografica che omaggiamo sempre volentieri. Il primo è di Sharon Jones, lei scomparsa nel 2015, ma con ancora tanto materiale registrato che è rimasto ancora inedito. Questa è un'anteprima di un album di prossima uscita ed è un omaggio a un brano vecchio di Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Singolo che abbiamo scelto per la Dapton e dei Budos Band ed è per celebrare il 15° anno di attività. Sì, questo Log in the Tooth che uscirà il prossimo 9 ottobre. Noi ci ascoltiamo Gun Metal Grey di questa che possiamo definire la miglior band di Afrobeat in circolazione. 18 settembre scorso è uscito per la Impulse Record la registrazione di Thelonious Monk, tenutasi alla Scuola Superiore di Palo Alto in California nel 1968. E infatti era l'autunno di quell'anno, uno studente sedicenne di nome Danny Sher sognava di invitare il pianista e compositore Thelonious Monk e il suo stellare quartetto ad esibirsi presso la Scuola Superiore in cui studiava. E tra complicazioni, annullamenti, giravolte e inciampi organizzativi che si sommavano alle tensioni razziali e politiche in quegli anni, il concerto alla fine ebbe luogo. Quella che ci stiamo ascoltando è Rudy My Dear, da questo live del 1968. Che sono 47 minuti di musica in realtà molto molto bella, in cui il quartetto celebra i vari temi più famosi di Monk. Qui quartetto completato da Charlie Rose, il fidato sax tenore, Larry Gales al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. Detto, era il 1968, un anno in cui i tumulti imperversavano gli Stati Uniti, era l'anno segnato dalle uccisioni di Martin Luther King e Robert Kennedy, dalle rivelazioni di quanto avveniva compiuto in Vietnam con proteste e rivolte in tutto il paese. E nel 1968 Thelonious Monk era per molti versi all'apice della sua carriera. Il suo quartetto era al meglio della forma ed era noto al grande pubblico per aver conquistato un paio di anni prima la copertina della rivista Time. In realtà poi dietro la superficie era ben altra, le sue finanze navigavano in cattive acque e anche i suoi problemi di salute andavano peggiorando. E così, quando ricevette la chiamata di questo intraprendente sedicenne studente, non ci pensò due volte e da San Francisco si spostò a Palo Alto. Così siamo arrivati anche alla conclusione di questa nostra prima puntata di questa stagione, e per concluderla appunto abbiamo deciso di omaggiare uno splendido personaggio che se n'è andato lo scorso 4 settembre. Parliamo di Gary Peacock, aveva 85 anni ed è morto nella sua casa di New York, un contrabbassista che ha fatto davvero la storia del jazz. Lui che ha suonato con i maggiori esponenti anche del free, poi con i grandi pianisti Paul Play, Bill Evans, e poi dal 77 per formare quello splendido trio guidato da Keith Jarrett per una carriera lunga, quasi 70 anni. Con Jarrett ha sicuramente rivoluzionato il trio moderno, però il primo loro incontro, completato appunto da Jack DeJohnette alla batteria, avvenne nel 1977 per la registrazione di un album per l'ECM, però a firma proprio di Gary Peacock, quel Tales of Another. E per salutarvi noi abbiamo scelto invece un brano a firma di Gary Peacock, ma qui suonato da solo, da quel Deserve Poem del 1977, ancora uscito per la gloriosa ECM. Questa è Snow Dance. Thank you. se vi state sintonizzando solamente ora o comunque se volete riascoltare questa come una qualsiasi delle altre monografie di Attica Blues, vi ricordiamo che le trovate tutte sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, basta andare sul palinsesto al giovedì pomeriggio, trovate Attica Blues, cliccate e vi si apre la nostra pagina con le varie trasmissioni corredate dal podcast, da una breve descrizione, dalla scaletta e da una foto che rappresenta la trasmissione stessa. E come di consueto vi ricordiamo anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Instagram, su Twitter, e vi ricordiamo anche la corposa playlist di musica nera e tra l'altro direi sempre aggiornata, che invece troverete su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. Così noi vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre stessa frequenza, 87.9 Radio Onda Rossa. E giovedì prossimo festeggeremo alla grande ancora un altro compleanno, e infatti ad agosto è caduto il centenario dalla nascita di un eroe del jazz moderno, Charlie Parker.